Le ore si scardinano. Forse è un cuore esploso fra i forse e le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Forse è un cuore esploso fra i forse e le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Forse un cuore esploso fra i forse e le mani intrecciate. Le ore, le ore, le ore, le ore si scardinano, forse è un cuore esploso tra i forse e le mani intrecciate. Le ore si scardinano, le ore si scardinano, forse è un cuore esploso. Esploso fra i forse le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Forse un cuore esploso fra i forse e le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Le ore si scardinano. Le ore si scardinano. Forse un cuore esploso fra i forse le mani intrecciate.